Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Maxi Riss è tra i clienti come questa, avvenuta in Kentucky, code infinite e sconti che fanno gola. È questo il succo del Black Friday, il venerdì nero negli Stati Uniti, una festa per chi vende, una caccia per chi acquista. Diventata ormai una tradizione del consumismo, è il primo venerdì che segue il giorno del ringraziamento ed è utilizzato per dare il via allo shopping natalizio. Dalla notte prima la gente in coda dorme nei sacchi a pelo fuori dai centri commerciali e quando finalmente le porte si aprono tutti di corsa per arrivare prima che si esauriscano i prodotti scontati. Sgomitando e scalciando, nessun colpo è proibito nel Black Friday. Nella guerra degli sconti sono stati presi d'assalto soprattutto i negozi di elettronica e abbigliamento, ma da quest'anno la caccia è stata grossa anche online. Il servizio è del TG5, ma ne stanno parlando un po' tutti perché è entrato ormai nel nostro costume nazionale il fatto che il primo venerdì dopo il giorno del ringraziamento, e già qui dovremmo cominciare a aprire parentesi, voi sapete cosa sia il giorno del ringraziamento, perché c'è il giorno del ringraziamento, quando si fa il giorno del ringraziamento, comunque tutti sanno che domani si fanno sconti fantastici, perché? Perché è qualcosa che viene da lontano, però a nessuno dà fastidio, anche se la gente fa pugni, si scanna, si fanno file lunghissime davanti ai negozi per questo Black Friday, che è il giorno, il venerdì nero, in cui la gente impazzisce e i negozianti impazziscono, mettono fuori roba anche al 70% di sconto, una sorta di saldo anticipato, ma saldo molto anticipato, non so se nemmeno sia questo il termine giusto. Sta di fatto che anche in Italia da qualche giorno non sento parlare d'altro, mi stupiscono le categorie di persone che parlano di questa cosa, che è una cosa che viene da lontano. Mi stupisce che nessuno, non ci siano vergini vestali pronte a inorridire, perché stanno arrivando da noi anche degli usi anglosassoni. Chissà perché per Halloween ogni anno c'è sempre qualcuno che tira fuori i crocifissi, lancia anatemi, dice stiamo facendo feste pagane, la festa della stupidità. Questa è veramente, mi sembra, una ricorrenza un po' stupidarella, ma senz'altro utile a vuotare i magazzini e a far venire la voglia alla gente di spendere, entrare in tempi anticipati del clima natalizio, sta bene a tutti, ma sta bene anche a me, mi diverto, non vedo l'ora di comprarmi le nuove batterie per le luci che ho appena comprato online. Quello che mi sembra di aver capito è che il Black Friday in Italia è più che altro orientato nel commercio online, anche se alcuni negozi stanno in qualche modo anticipando il fatto che domani anche loro faranno grandi sconti. Beh, vorrei capire un po' di più su questa vicenda. Vorrei innanzitutto che voi mi diceste come vi preparate a celebrare questa giornata, che veramente è lontana anni luce da quello che è lo scandire tradizionale della nostra vita quotidiana, ma ci sta bene. Domani avremo crisi o non crisi, mestizia o non mestizia, rabbia o non rabbia, problemi o non problemi, comunque una ventata di allegria, perché anche i più scalcinati di noi, quelli che più devono stare attento ai loro risparmi o al loro budget quotidiano, andranno comunque probabilmente su Amazon e si compreranno qualcosa che desideravano tanto, perché in effetti costa molto meno. Quindi domani vi arriveranno le cuffiette che desideravate da tanto tempo, la cover per il vostro palmare che desideravate da tanto tempo, o regalerete probabilmente quel cofanetto con tutta la raccolta di quel particolare film, della saga del particolare film che i vostri figli desideravano tanto. Vi state preparando anche voi quindi al Black Friday? Ditelo, perché tra poco vorrei sentire il vostro parere. 800 24 00 24. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Quello che più mi interessa questa mattina è sapere quale percentuale delle persone che mi ascoltano, che sono divertentissime quando parlano dei giochi di piazza che facevano da piccoli, in realtà hanno ormai passato gran parte delle proprie abitudini di acquisto nel e-commerce. Cioè, cosa comprate online? C'è ancora qualcuno che ha reticenze, qualcuno che ha timori, qualcuno che ha paure? Ieri sono andato a comprarmi una lampadina dal negozio di elettronica sotto casa, il cui proprietario è un signore di una certa età e davanti ha tutti i POS per tutte le carte di credito e per tutti i possibili bancomat. Solo che per i miei 10 euro che spendevo mi ha pregato quasi in ginocchio, come se mi chiedesse la grazia, un condannato a morte al boia già con la mannaia pronta: la prego, me li dia in contanti. Come, non ce li ho in contanti? Guardi, le faccio lo sconto. Se va lì al bancomat te li prendi in contanti. Ma scusi, ma lì non posso pagare, pago con il bancomat. Niente, per lui è una sorta di violazione a un dogma religioso passare il suo lecito guadagno attraverso una carta elettronica di credito. Beh, voi la pensate così? Avete ancora paura? Avete ancora timore? Non sapete quanto sia divertente chiedere, ordinare una cosa e avercela la mattina dopo già che ti arriva a casa pronta, e vedere il tracciato, vedere che passa dalla Germania, dalla Francia, poi arriva a Milano, poi di notte cammina, la vedi, sta a Viterbo, arriva a Roma la mattina alle 6:30 e sai che alle 8:30-9 ti suona qualcuno e ti arriva il pacco. Tu la sera prima l'hai visto nel monitor e il giorno dopo ce l'hai a casa. Mi sembra impossibile. Per voi è così? 800 24 00 24. Riccardo Mangiaracina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, è un esperto di e-commerce, l'abbiamo avuto già altre volte come ospite, è responsabile dell'osservatorio di e-commerce B2C del Politecnico di Milano, e questa mattina ci dà un'idea, la mia è una domanda fatta al pubblico di cui non so ancora la risposta, ma da quello che risulta al vostro osservatorio, gli italiani sono un pochino più scafati nel commercio elettronico? Sì, gli italiani sono decisamente molto più scafati rispetto al passato nel commercio elettronico, tant'è che parliamo di un settore che cresce, ha raggiunto un giro d'affari nel nostro paese di 20 miliardi di euro nel 2016, crescere del 20% circa rispetto all'anno precedente, aumentano anche gli acquirenti online che oggi sono circa 19 milioni in un anno, quindi tutti coloro che hanno fatto almeno un acquisto in un anno. Però detto questo, l'e-commerce, nonostante il ritmo di crescita interessante, non ha raggiunto ancora una diffusione molto molto importante e pervasiva, perché pesa solamente per il 5% del totale acquisti degli italiani. Vediamo di capire un po', visto che i dati li state osservando da molto tempo, quindi vedete come cambiano e come possono fluttuare. Innanzitutto, cosa acquistano gli italiani online, preferibilmente? Così vediamo di definire le categorie degli acquirenti. Giusto, allora, gli italiani acquistano ancora oggi prevalentemente servizi, e il primo settore in assoluto è il turismo, e soprattutto acquistano biglietti per i trasporti aerei e ferroviari. Per capirci, il turismo da solo pesa quasi la metà di quei 20 miliardi. Infatti viaggiano molto di più, viaggiano fuori dei periodi, diciamo, canonici del viaggio, acquistano i viaggi con largo anticipo perché così sanno che si risparmia. Hanno un po' imparato che si può viaggiare anche senza affidarsi sempre alle agenzie. Questo è un vantaggio per la borsa individuale, penso. Assolutamente sì, hanno imparato che su certi tipi di viaggio si può fare senza le agenzie. Per comprare un biglietto aereo, tutto sommato, è molto più comodo e pratico farlo direttamente da casa, peraltro con degli strumenti che ci consentono di scegliere veramente il volo che fa per noi, e pianificandolo in maniera adeguata si possono risparmiare anche dei bei soldini. Peraltro, quindi, questo era uno dei settori più facilmente vendibili online, è già dematerializzato, parliamo di un biglietto, no? Mentre i prodotti, diciamo che ci hanno messo più tempo ad affermarsi online, però oggi stanno diventando una realtà. Tant'è che l'informatica del elettronica di consumo è il secondo settore più venduto online, vale circa 3 miliardi di euro, cresce del 25% rispetto all'anno scorso. E poi troviamo l'abbigliamento, che è uno di quei settori merceologici su cui in pochi avrebbero scommesso. Sì, perché come si fa a comprare un abito senza provarselo addosso, senza vedere come sta? È un bel azzardo. Io capisco l'elettronica consumer, perché lo smanettone è chiaro, poi alla fine il giocattolo ce l'ha in mano lui e gli accessori per il giocattolo che usa se li compra online. Ma capisco anche i trattamenti, le signore si comprano i cosmetici, i trattamenti, le saune, i massaggi, le cremine, tutte queste cose qua mi sta bene, ma l'abbigliamento mi sembra un po' singolare, no? Ma allora, stupisce fino a un certo punto, perché in realtà le ragioni che portano gli italiani ad acquistare abbigliamento sono diverse. In prima battuta ci metterei la scelta, la gamma. Andando su un negozio online molto spesso si ha una gamma che è sostanzialmente introvabile in un negozio fisico. In seconda battuta ci metterei il prezzo, perché in molti casi effettivamente il prezzo è un pochino più vantaggioso online rispetto allo store sotto casa. E poi c'è il servizio, voglio dire, con l'abbigliamento tutti i principali operatori sono molto attenti nell'offrire dei servizi di arreso facili da usare e puntano a mettere il consumatore a proprio agio, tant'è che un comportamento di acquisto molto diffuso nel momento in cui si acquista un capo di abbigliamento, se io ad esempio porto la taglia 50 e ordino la taglia 48, la taglia 50 e la taglia 52, me li faccio consegnare a casa, li provo e tengo solo la taglia che mi va bene e restituisco gli altri. Per questo è singolare, inimmaginabile, è talmente facile restituirli, uno prende tre taglie, le prova tutte e tre e rimanda indietro quelle che non vanno bene. Esatto, adesso, ecco, questo è il segreto, è proprio questo. Fermo un attimo, mi scusi, sentiamo subito due persone, approfitto della sua presenza perché può dare risposte più competenti se chiedono qualcosa di tecnico. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono un agente di commercio e... Agente di commercio? Domani sono con voi, lo sapete, domani vi farò vendere le cose invendibili, sarò a Milano. No, ma io sono agente di commercio, quindi io vado per i negozi, lavoro nel settore del packaging. Quindi proprio stamattina due negozianti mi hanno chiesto qualcosa di questo Black Friday. E se la domanda com'era? Ma che è sta roba? Tu ne sai qualcosa? Così era la domanda. Bravo, il problema è proprio questo. Dunque, detto questo, tutti e due, a distanza di pochi minuti dalla mia visita, hanno rimarcato la sciocchezza e addirittura sono addirittura controproducenti queste iniziative che noi prendiamo per buone, magari così. Dall'America, che hanno tutta un'altra tipologia di vendita, hanno i mall che sono enormi, magazzini che sono enormi, poi ho sentito dove un certo numero di articoli viene messo a sconto e non tutti. Ma certo, fanno le file per le cose che interessano, ma sono diciamo delle vere città, dei centri commerciali enormi, alcune cose le vendono a prezzi stracciati, anche il 70%, la gente fa la fila, ci dorme davanti, come quando esce il nuovo tipo di iPhone, un po' è quella l'idea. Infatti, ma detto questo, nel settore nostro del commercio, che è completamente... ormai disastrato dalla realtà del calendario, ormai le svendite non hanno nessuna regola. Io che lavoro appunto, come le dicevo, nel settore del packaging, faccio le buste con cui il cliente esce con il nome del negozio tra gli altri articoli che vendo. Per lei è venerdì nero, nel senso è il venerdì della sfiga, è il segno tangibile dei tempi che la lasceranno senza lavoro se va avanti così. Se tutti comprano online, le buste che ci fanno? Se le mettono in testa quando vanno a timbrare il cartellino per non farsi vedere. Fermo un attimo, sentiamo Caterina. Caterina. Sì, buongiorno, io chiamo a proposito anche dell'e-commerce. Io compro molte cose, ho iniziato anni fa, quando purtroppo mi sono trasferita da Milano a Udine, a comprare... Perché purtroppo? Purtroppo perché è una cittadina piccolina, offre pochissimo rispetto a Milano e tanti altri motivi. Cosa le offriva Milano che non offre Udine? A me piace la gente, vedere la gente, la possibilità di andare a fare la spesa alle 11 di sera, che qui non c'è, o la possibilità di vedere... A che ora finisce la vita a Udine? Alle 6 di pomeriggio? Non esiste neanche, lunedì e mercoledì pomeriggio sono chiusi i negozi alimentari, cioè è una cosa tristissima. Quindi per me è come stare in Siberia per lei, una cosa del genere? Per me sì, arrivando poi, io ho vissuto anche a New York, a Londra, a Bruxelles, venire qui è stato Quindi tremendo. Si sfogherà con l'e-commerce? Bravissimo, e ho iniziato con mio figlio, che adesso ha 11 anni, ma quando era piccolo gli compravo dei vestitini meravigliosi su questo sito che ho trovato io, inglese e uno norvegese, che hanno delle cose che non esistono probabilmente neanche a Milano, neanche in Brera. E quel povero bambino quando andava a scuola con i vestitini inglesi, quanto lo pigliavano per il culo i compagni? Questo un pochino sì, probabilmente ha patito, però insomma nei limiti, voglio dire, però è vero, sicuramente l'hanno preso in giro non poco. Ci credo, pensa che andava a Spilimbergo del Friuli col vestitino inglese, cioè... Sì, è vero, ma non gli mettevo il fiocchettino, voglio dire, il pantalone col risvolto, con l'interno. Cioè, avrà ancora dei traumi da sedare per questa cosa qua. Prego. Avrà ancora dei traumi questo bambino. Allora, sentiamo queste due vicende, le proponiamo al nostro ospite. Allora, Riccardo Mangiaracina, due casi di incongruenza ancora con quella che è la realtà italiana rispetto a quello che stiamo dicendo. Sì, al primo radioascoltatore che è intervenuto rispondo questo. Allora, è vero che l'e-commerce si sta sviluppando, ma quello che stiamo anche vedendo in molte realtà è che si sviluppano i cosiddetti percorsi multicanale, cioè magari faccio l'ordine online, scelgo online, acquisto online, poi vado in negozio a ritirare. Quindi in molti casi può stare tranquillo. Le sue buste può ancora darle a qualcuno. Esatto, ecco. Lo stesso sacchetto lo può ancora dare. E la signora delocalizzata alle sue abitudini, che come vendetta rispetto agli udinesi veste il bambino da piccolo lord e lo manda dalle scuole di Udine. Beh, in questo caso cosa posso dire? Certamente l'e-commerce è molto utilizzato davvero in quelle aree dove l'offerta di negozi fisici è un po' più carente, no? Quindi trova terreno fertile in quelle aree. In altre circostanze invece devo dire che i centri urbani grandi sono molto più privilegiati anche dal punto di vista del commercio elettronico. Faccio riferimento ad esempio a tutte le principali iniziative nell'ambito alimentare. Se pensiamo ai grandi supermercati che oggi offrono il servizio di e-commerce, tendenzialmente lo offrono nei grandi centri urbani. Milano, allora Torino, Riccardo Mangiaracina, io devo dare la linea, so che lei ha una riunione, se non può rimanere più con noi la saluto, se rimane altri 5 minuti poi ci fa ancora piacere, decida un po' lei, intanto la saluto, a presto, e se può rimanere ci sono tanti ascoltatori che hanno da fare le domande, ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024. Devo dire che mi sta entusiasmando la risposta del pubblico a questa trasmissione. Ho domandato, in vista del Black Friday, che poi non ce ne frega assolutamente niente del Black Friday, è una cosa americana, però qualche negoziante che più avveduto degli altri si svuota un po' di fondi di magazzino e li butta alla folla, così cominciano già a indebitarsi in vista del Natale. Ma la cosa divertente è quando ho domandato ai nostri ascoltatori qual è la loro gestione dell'e-commerce. Beh, una gestione del tutto italiana. Mi scrive un ascoltatore, Daniele da Voghera, lui fa così. Per evitare il problema, diciamo, di comprare oggetti di vestiario e poi non sapere se si imbrocca la taglia giusta. Qualcuno, come ci ha detto già l'ospite poco fa, si prende vestiti di 3 taglie, si trova quella giusta e gli altri 2 li restituisce, giocando sul fatto che l'e-commerce permette un largo margine di ripensamento. Ma Daniele da Voghera la fa ancora più sporca. E voi commercianti di scarpe cominciate a tremare. Lui entra nel negozio, si prova le scarpe della marca che gli piacciono, vede qual è la taglia giusta, come gli stanno, ci fa una camminatina, poi esce e dice: beh, ci penserò, va a casa e le compra con l'e-commerce, se le fa arrivare a casa il giorno dopo e spende anche meno. Francesco, buongiorno. Buongiorno, salve. Signor Ricoletti, buongiorno. Niente, io in effetti mi collego proprio all'ultimo Daniele da Voghera. Sì, perché è un genio, però l'e-commerce però distrugge il commercio, perché quel commerciante che paga tasse, IVA, quant'altro, affitti, eccetera, paga un commesso, forse anche 2, si troverà comunque della merce non venduta, perché esiste l'e-commerce e questi mezzucci per poter... Ma ne pensi il tempo perso, no? Il commesso Daniele, poi sapendo che tanto non deve comprare, si diverte, prova tutte le scarpe possibili, più costose. Ma quanti ne conosco che fanno queste ci cose? Fa una camminatina, magari manco si lava i piedi, perché c'è tanto che mi importa, gliele lascio lì con i calzini tutti sudati, le sì, mette, per le pagare poi 20 euro su online, cioè alla fine che cos'è? Le prova 20 paia, si segna tutto da furbacchione la taglia, il numero, anzi fa la foto proprio della scarpa, capito, con lo smartphone, poi dice ma ci penso, passo domani, voi sperate che domani ripassa Daniele da Voghera, ma lui corre a casa, anzi se la compra direttamente con lo smartphone mentre la sta provando probabilmente. Beh, per voi è terribile questo, no? È assurdo, tra l'altro conosco dei commercianti che si fanno pagare per provare della merce, perché loro sanno che poi il cliente si prova la merce, non la compra e va su internet e se la compra. Ah, questo, no, questo mi sta dando un dato antropologico interessantissimo. Sì, sì, sì. Nell'ambito dell'abbigliamento moto soprattutto. Cioè l'abbigliamento moto che costa una tuta di cuoio imbottita, antiurto, anticaduta e via dicendo, che costa tanto, tu dici te l'affitto per 10 minuti, te la provi la taglia giusta, poi non me la compri, però te la compri come ti pare. Alla fine è una maniera per rimediare. Certo, è successo proprio a me, quindi sono testimone. Quanto chiedono per una prova? Ah, mi ha chiesto 30 euro, ma così è una cosa simbolica. Però, secondo lui... Però, tanto, scusi, no, è un bel commercio. 30 euro sì. Per non vendere niente, solo per farsi... Per non vendere niente, certo. Parliamo comunque di un oggetto che costa dai 700 ai 900 euro. Scusi, ma come fa a fatturare quei 30 euro? Che scontrino vi fa? No, che scontrino? Ma niente, 30 euro al nero, quindi sono 60. Certo. Allora, scusi, ma questa è tutta una maniera italiana per intendere l'e-commerce. L'e-commerce dovrebbe essere sì. Il massimo della trasparenza, il massimo dell'efficienza. In 10 minuti di trasmissione abbiamo già trovato 3 inghippi che creano un sistema italiano. Le scarpe provate e poi comprate via e-commerce. Gli abiti comprati di 3 taglie, che alla fine è un comportamento scorretto verso chi te li vende, perché comunque gli restituisci una merce facendoli pagare la spedizione, il rientro, lo storno e via dicendo, sapendo già in partenza che è per un tuo problema, non per un problema suo. La merce era perfetta, ne hai prese 3 taglie che vuoi trovare quella giusta, e non entra, diciamo, nel rapporto di fiducia fra chi vende e chi compra. E l'ultima è la più schifosa, affittare la roba per provarla al nero, prendendo i soldi al nero per permettere che poi la gente le compri. Questo, grazie, mi ha dato una lettura fantastica. Io trovo che ci sia una indagine antropologica in questi 10 minuti che supera ogni indicatore scientifico. Giuseppe. Buongiorno. Sì. Volevo portare la mia esperienza invece, anzi due negative tra le tante che ho avuto di positive ordinando con l'e-commerce, delle quali però vorrei che si tenesse conto. La prima, quella più recente, riguarda un mio acquisto di una padella fatta su un un presidio sanitario per chi sta allettato, cos'era? Prego? Una padella in che senso? No, scusi, una padella per friggere, di quelle recenti, diciamo così. Uno si vergogna la compra in commerce. Certo. Quindi la ordino, convinto di acquistare quel modello di quella ditta costruttrice italiana, perché sia nella descrizione sia nelle fotografie riportate nel sito era inequivocabilmente prodotta da quella ditta costruttrice. Invece? Allora che mi arriva questa confezione, tolgo la padella, la faccio vedere a mia moglie, contento di averle procurato finalmente. Questa padella che lei tanto desiderava. Pensa che bello, mio marito invece regalarmi un gioiello mi regala una padella, così mi costringe ancora di più al mio lavoro di schiava. Se non che mia moglie tira fuori un'altra padella della casa costruttrice che lei voleva acquistare di un altro diametro e mi fa vedere che è totalmente diversa da quella che mi era arrivata. Non aveva il marchio quindi una padella tarocca vanno mandato. Era una tabella tarocca. Tanto ma che può restituirla però, la può restituire comunque. Sa tutto il rompimento di scatole che uno deve assorbirsi per poter fargli avere la padella. Poi uno si rivolge a un sito ben noto, il più conosciuto forse, non voglio far nome. È Amazon, sarà quello, penso. Esatto, sì. È convinto che comunque ci sia dietro una garanzia anche da parte di chi, come Amazon. Guardi, però comunque, sono abbastanza elastici delle restituzioni. Se lei non trova la cosa, la rimanda indietro. Che problema c'è? Però lei quando diceva prima che va giù dal suo negoziante dalla lampadina, se la lampadina non funziona, prende, scende giù di 2 piani. Quello lì che non vuole le carte di credito, c'è un cartello grande, la merce venduta non si restituisce. Però quello che le voglio dire è che non è tutto oro che luccica, di conseguenza, se succedono anche queste cose. Sì, vabbè, certo, uno restituisce, può starci. Io non ho restituito, ho ritenuto più opportuno invece mandare tutta la documentazione comprovante il raggiro di cui ero stato oggetto alla ditta costruttrice di quella padella che gliel'ha fatta pagare. Per dar modo al costruttore italiano di rivalersi. Una bella vendetta. Lei ha scelto la via difficoltosa, ma il piacevole sapore della vendetta, che naturalmente è un piatto che non si mangia caldo, arriverà quando loro piangeranno e Amazon si troverà in seria difficoltà, perché il padellaro italiano gli intenterà una causa sicuramente per la padella tarocco della dimensione diversa a quella che aveva chiesto, che aveva ordinato. Bravo, Raffaello. Buongiorno Nicoletti. Stanno lì con le lamette, quelli di Amazon, pronti a tagliarsi le vene. Raffaello, prego. No, per la notizia che abbiamo dato adesso. Ma le notizie sono bellissime. Questo è quello che dico io. La gente italiana, io ho una piccola azienda che vende da 30 anni, siamo stati tra i pionieri. Dell'e-commerce, dice, no? Esatto, dell'e-commerce. E la dimostrazione l'hanno data gli ascoltatori prima di me. In pratica l'italiano è furbo, vuole toccare, vuole tastare. Cosa vende lei? Cosa vende sul suo esercizio? Cosmesi, creme. Ah, le cremine che si comprano le signore. Le cremine che comprano le signore. Se le regalano fra di loro. Sì, diciamo che bisogna cercare. Ma è roba di buona oppure è robetta così? No. Se sono 30 anni, no, è il mio piccolo, se sono 30 anni che sono qua lavorando in questo modo, il prodotto è veramente tanto male. La crema non è che la possono provare e poi rimandargliela. Oh, signor Nicoletti, no, esiste la legge soddisfatti o rimborsati. Cioè, se lei trova le due ditate giorni dentro la crema che se l'è già messa, la signora può... Ha 15 giorni di tempo per restituire il prodotto e le vengono scalate le spese di spedizione e le vengono restituite. Ma una, scusi, se la spalma fino all'ultima goccia, ne lascia solo un pochino, dice. In teoria, allora, Nicoletti, se vuole il procedimento preciso, deve farmi una raccomandata con una raccomandata. Ah, quindi uno lascia perdere. Sì, però la legge dice questo. E però è quello che ha detto lei, potrebbe usarlo per tre quarti, dato che ha 15 giorni di tempo per poter provare il prodotto. Dopodiché uno si spalma come un'anguilla per 14 giorni, poi gliela rimanda indietro, ci rimandamela, che questa mi ha fatto venire l'allergia. Sì. E lei gliela deve rimandare. Con questo sistema sempre una crema nuova. Beh, questa è una bella idea. Devo dare la linea? No, ancora no. Allora, Giulio. Salve. Io ci vedo male, sono scritto un po' più grosso. Allora, Giulio, sì, l'ascolto. Sì, buongiorno. Anch'io ho il stesso procedimento reso di 15-30 giorni, è una cosa incredibilmente comoda. Anche per il fatto di poter, per fare la comodità, ordini due paio di scarpe, li provi con calma e loro stessi, tipo altri famosi. Ma se la suola dà qualche segno di camminamento, non credo che gliele riprendono. No, ma non cammini, no, cammini in casa, al tempo di provarle. Dice uno vuol fare il figo una serata, invita qualcuno a casa, si mette le scarpe comprate, fa il figo, cammina sulla moquette, attenzione, mette magari delle pattine sotto e poi gliele rimanda il giorno dopo. Ma questo vale non per proprio tutto. Per paradosso anche delle mutande, uno se le mette una settimana, le lava, le stira e gliele rimanda. Una sempre biancheria pulita e pronta. No, ma provare due mutande in negozio o anche poi di scarpe in negozio magari più scomodo, mentre invece a casa te le puoi provare con calma e poi le rimandi indietro quelle di cui non hai bisogno. Adesso devo lasciare la linea. No, interessante. Però vorrei capire se qualcuno di voi ha strumenti, di quelli che viaggiano, che girano il mondo, che sono informati, per capire se in tutto il mondo si usano queste furbizie sull'e-commerce o siamo noi che abbiamo inventato una sorta di zona limacciosa attorno all'e-commerce che permette comunque di farci i nostri affarucci tranquillamente alla barba di un sistema che dovrebbe funzionare nella stessa maniera in tutto l'universo. A tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, come vi comportate voi nella vostra attività di e-commerce? Fate come gli ascoltatori ci hanno chiamato, andate a provarvi la roba magari pagando un piccolo affitto e poi la comprate online, oppure comprate oggetti che poi non vi piacciono e fate delle ritorsioni terribili contro Amazon invece che rimandarglielo indietro e farvene mandare un altro. Placido, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare un appunto relativamente al fattore abbigliamento. Lei aveva detto che comprare abbigliamento con l'e-commerce è singolare. Mi domandavo io, perché io di solito, se non lo sento sotto le dita, sono l'antica, il tessuto di un abito difficilmente lo comprerei, a meno che non conosca già di cosa si tratti. Ma io realtà, per quanto riguarda la mia esperienza personale, è più facile di quanto sembri. Io personalmente con mia moglie e mio figlio compriamo abbigliamento solo tramite e-commerce, scegliamo un brand, ogni brand dal più prestigioso al più commerciale ha il suo shopping online, lì ci sono delle indicazioni sulle misure. Per esempio, se io compro una camicia S, clicco su S e mi dice collo 37 cm, petto 8 cm, spalle 8 cm. Faccio delle misure, se sono quelle mie, la prendo. Sì, ma se io non sento il cotone sotto le dita, la camicia non me la compro, perché poi magari non mi piace o me la sento male, non lo so, però sono miei problemi. Certe cose potrei, forse, non comprerei mai dei pantaloni, mai una giacca, forse delle magliette magari, le magliette sì le potrei comprare, pedaline le potrei comprare quanti ne vogliono, l'intimo tutto, certo, naturalmente, figuriamoci. Certe cose che mi piace proprio sentirne l'odore, sono un po' antiche. Io sono abituato che quando a casa si doveva comprare un vestito nuovo ci andava tutta la famiglia, zii, nonni, nipoti, facevano tutte le prove possibili, tiravano tutti sul prezzo. Sono un po' l'antica, purtroppo. Placido, parlato Marco. Marco. Sì, buongiorno signor Nicoletti. Innanzitutto complimenti, la seguo da tantissimo facendo il commerciale girando per Roma. Sono di Ostia. Lei fa il commerciale, cioè vende e vende lei? Non si vende, però è un altro mondo, un'azienda di giochi, un altro. No, questi giochi che tipo? Parecchi di intrattenimento, lasciamo perdere, ci avete già massacrato. No, no, no, vi sto ascoltando, perché? Ma sono giochi che non si possono descrivere alla radio? No, sono slot. Le slot, ma che mi importa? Io non faccio il moralista. Vende slot machine, non è un reato quello che sta facendo, no? No, anche se è da ridere, da piccolo fui chiamato a scuola, che era una premessa dalle suore, perché e la suora ci chiamò a me e a mia moglie, perché preoccupati noi diciamo: che è successo? Praticamente dice: no, mia figlia è in un tema, voleva sapere innanzitutto se eravamo sposati, se eravamo separati. Questo è importantissimo per la suora. Allora, certo, io poi... ero preoccupato, Maria Carla era piccola, e alla fine madre, che c'è? Ci dica qual è il problema. Alla fine siamo felicemente sposati, abbiamo due figlioni. No, sua figlia ha fatto un tema, e praticamente, dato che io scherzando, perché mi piace sempre scherzare, sono un positivo, diciamo per la picca: papà, fa il venditore di droga legalizzata, inserendo alle slot. E la bambina, che aveva 6 anni all'epoca, riportò testuali parole, e la dovemmo spiegare alla suora. Ah, cioè, pensavo che facesse una coppia di spacciati. Sì, ma non capisco il nesso. Voi potete spacciare droga, è sposati, a lei stava bene. E diciamo vendere, che ne so, margherite, ma da diciamo una coppia di fatto, a lei stava male, come funzionava? No, perché si preoccupa, dice: ma chi famiglia c'ho questo, essendo una scuola a pagamento, le sue... No, soprattutto era preoccupante per uno spacciatore, una figglia che sì, lo scrive sul tema. Esatto. Beh, andiamo al punto, che abbiamo... No, al punto volevo fare alcune precisazioni, perché spesso mi diverto e sono un buon compratore dei discorsi online dei vari settori. Possiamo parlare di Ticket One, grazie a loro, avendo una carta di credito trentennale dell'America, sono riuscito a prendere tutti i biglietti online dei vari concerti, anche quelli dei Coldplay per i figlioli, e tantissime altre cose, per cui si prendevano tranquillamente una alla volta, e questo è un fatto positivo. Sono sempre arrivati e tutto funziona benissimo. Per quanto riguarda il discorso di Amazon, preciso che ci sta una pecca negativa, è la restituzione. Spesso mi sono divertito a colleziono film online, serie TV, ne ho preso qualcuno doppio, 7 euro, alla fine l'ho dovuto regalare a qualche persona cara, perché non dispiace, perché per restituirlo è un macello, è complicato. È complicato, però le posso dire cose eccezionali. Una volta in estate ho comprato un bermudo in saldi ad Ostia della Timberland, immagina dove, essendo lei credo di Casalpalocco, per cui l'ho comprato di Casalpalocco, non so nemmeno dove stia Casalpalocco. No, scusi, essendo il negozio più o meno di quelle, allora, per cui che cosa è successo? È successo che io l'ho comprato e ho preso un grande saldo. Amici miei mi dicevano sempre che potevo comprarli, ma come diceva quel signore, loro vanno, si misurano, perché i capi firmati sono a misura. A quel punto io ho voluto vedere se il saldo era veramente valido. Ma lei mi crede, il bermuda che io avevo comprato, la stessa taglia su Amazon, costava 15 euro e 50 in meno, con tutta la consegna. Ma sa quanto ho rosicato? È il mondo del commercio elettronico, che bisogna capire che nella vasta scala hanno naturalmente dei margini che non ha il venditore di casa al Palocco. Marco, sentiamo Marco. Marco è passato. Paolo. Sì, buongiorno. Chiudiamo con Paolo, sì, siamo tra pochi secondi. Ciao Nicoletti, io volevo argomentare come mai io vado a provare le cose qua e là e non me ne vergogno per niente, no? Perché mi è capitato per esempio di voler acquistare una lavatrice, io sono andato in un negozio, il commesso mi ha spiegato tutto. Oh, certo, pagato per quello. Oh, esatto, poi io avrei potuto invece che comprarla dopo su internet, non a 20 euro meno, ma a 300 euro meno. Chiude, se no la taglia la sigla. Ok, andare nel negozio di fronte, vedere un prezzo minore e comprarla lì, quindi non vedo che danno che ho fatto. Nessun danno, e la gente rimane male, fa parte del gioco. Il rischio è che scompariranno anche quelli che hanno le lavatrici da fotografare perché si compreranno solo online. Questo magari, rischio, potrebbe accadere questo, ma non ci taglieremo le vene noi. Alla prossima.